Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Per il personaggio di oggi potrei dire, tanto per darvi un primo indizio, noi siamo quello che mangiamo, sapete il detto di Feuerbach, potrebbe essere un po' il suo motto, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, però adesso ci svelerà lui e chissà cos'è lui rispetto a quello che mangia, visto che dovrebbe intendersene un po' più di noi, diciamo, comuni mortali. Personaggio, quindi come ti definiresti attraverso tre aggettivi che non so se abbiano a che fare con il cibo, ma sentiamo. Va. Sono un uomo molto buono nei confronti di chi ha poco. Sì. Sono un uomo che ama il bello. Sono un uomo che è molto solidale. Un generoso tutto tondo, quindi possiamo dire. A parte sì, un esteta. Sono un leonaccio di segno. Sono un uomo da 3 agosto, quindi... Ho avuto di recente uno degli astrologi più noti in TV, Paolo Fox, quindi tu credi, tra le varie cose, credi anche nell'oroscopo? No, no? Nulla. Però ho capito una cosa. Sì. Io sono molto pragmatico. Tutti quelli che sono come me di quel periodo, abbiamo tutti... i pochissimi difetti e i tantissimi pregi. Accidenti, complimenti. Poi alla fine scopriamo che è al contrario, però noi studiamo che sono tantissimi pregi e pochi difetti, invece poi qualcuno dice che è esattamente al contrario, ma io ci sto lo stesso. Ma adesso lo scopriremo. E comunque, insomma, come tante persone che dicono no, io non ci credo, poi qualche piccola connessione, corrispondenza si trova sempre, siamo tutti un po' così, ma lui soprattutto è Giorgio Calabrese. Giorgio, benvenuto qui a Storielle. Il famoso nutrizionista, forse il più famoso, non so se possiamo dire, più famoso, comunque notissimo. Ci sono quelli che sono noti per fama e ci siamo quelli noti per fame. Per fame, tu più per fame, devo dire, sì, o no? Sì. Visto che sei, dicevo, famoso nutrizionista, famosissimo volto TV, Giorgio Calabrese, i suoi baffi bianchi, i suoi capelli candidi, ve li ricorderete senz'altro. E poi questo volto così simpatico, comunicativo, quando parla lui di mangiare, di alimentazione, anche di diete, persino di diete, tutti lo accettiamo un po' più volentieri. Sì, grazie, siete molto carini. Sei un siciliano, tu sei un siculo. Sono di Rosolini, in provincia di Siracusa, praticamente, per chi non conoscesse la Sicilia, è attaccata a Noto, perché Noto la conoscono tutti. Tra Noto e Modica, che sono due esempi di barocco straordinario, no? Proprio lì in mezzo un po' è Rosolini. Noi siamo a 10 km da Noto e 10 km da Modica. Proprio in mezzo, classe 1951, lo possiamo dire, tu hai detto che sei di agosto, in ottima forma evidentemente, perché poi ci racconterà insomma che come... Comunque, laureato in medicina, in chirurgia, specialista in scienze dell'alimentazione, docente in nutrizione umana in diverse università italiane, e poi so che collabori anche con molte università americane, no? La Columbia University di New York, sì. Sei stato membro dell'Autorità Europea sulla Sicurezza Alimentare, l'unico membro italiano. L'unico italiano, l'abbiamo fondata prima a Bruxelles e poi a Parma, e il primo luglio ho smesso i miei 6 anni e buon basta. Il tuo mandato è andato. È andato piacevolmente? Direi di sì, perché abbiamo formato una creatura che vedi in questi giorni, quando c'è stato il problema della diossina, ecco, è stata valutata dall'EFSA. Cioè, io dico sempre che esiste un'idea ben precisa nell'Europa di una voglia di essere come gli americani a tutto tondo. Non l'avevamo questa Autorità Europea della Sicurezza Alimentare, che ha il nome di EFSA, che si dà oramai a Parma, e noi l'abbiamo fondata, fatta crescere come un bambino, diciamo che ora sta facendo le ultime classi delle medie. Ah, quindi sta camminando un po' con le sue gambe, ormai avviato verso un futuro glorioso. Sono orgoglioso di averne fatto parte. Bene, e poi sei vicepresidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto Nazionale della Ricerca degli Alimenti e della Nutrizione. Esatto. Consulente del Ministero delle Politiche Agricole e della Salute. Lavoriamo. Ecco, manovale della scienza è carina. Consulente scientifico poi di molte trasmissioni RAI, per questo dicevo un volto televisivo molto noto, no? Giorgio, però tornando indietro, quindi tu intanto da piccolo come mangiavi? Vogliamo sapere come sei cresciuto. Io vi faccio capire che sono stato figlio unico di due genitori non giovanissimi, perché mio papà, quando io nacqui, aveva 43 anni, era un artigiano che aveva fatto la guerra ed era stato preso prigioniero, aveva fatto 10 anni di Inghilterra, e quando è tornato, siccome aveva detto alla mia mamma Io non ti sposo prima perché poi muoio in guerra e tu resti già subito vedova giovane. Beh, era sto generoso. Ma se torno, ti sposo e da galantuomo com'era e lei da gentildonna si sono poi sposati e hanno tirato fuori sto figlio che era magrino. E io mangiavo un po' di tutto, eravamo in una famiglia, insomma, benestante, mettiamola così, né ricca né povera, così, mettiamola. Diciamo che non hai sofferto la fame comunque, no? No, assolutamente no. E insomma, ero il nipote unico di 5 zii, per cui venivo coccolato viziato in tutti i modi. Sì, e per cui io mangiavo di tutto, però mangiavo molto bene perché avevo una nonna adorata, nonna Vannina, mamma Vannina, che mi coccolava, quindi lei mi faceva il miglior cibo, la mia mamma che mi aveva avuto a 30 anni, allora 30 anni quasi eri nonna, invece quella era diventata mamma, sai? Per cui aveva sempre questa attenzione particolarissima. Poi purtroppo la mia mamma però è morta quando io avevo 19 anni per un tumore e invece mi ha lasciato, almeno questo è stato un grande dono, il mio papà, che spero il 1° maggio farà con noi 100 anni. 100 anni, ma questo grazie ai tuoi consigli, Giorgio Calabrese. Ah, e lei anche grazie alla cura che mia moglie Caterina ci ha messo, perché lui vive con noi da più di 30 anni in casa, adorato dai suoi due nipoti, che sarebbero i miei due figli, Rudy e Cinzia, e che diciamo ci permettono di vivere una vita di una famiglia normale, serena, con tutte le grane che può avere qualunque famiglia e con un marito che è sempre in corsa, però insomma con molta serenità. Senti, e questo è stato l'inizio, l'esordio in una famiglia benestante, mangiai piuttosto bene e così via. Quando ti è venuto un po' il pallino, l'idea di dire ma quasi quasi mi occupo di questa cosa, di nutrizione umana? Io volevo fare il medico sin da piccolo e sono entrato all'Università Catania. Purtroppo il 1° anno è stato l'anno della morte della mia mamma e io iniziai con un gap di un anno, però siccome ero molto determinato incominciai a studiare come un treno e mi sono laureato in regola superando tutti i gap che potevano esserci e devo dire che negli ultimi anni di medicina, medicina a Catania io ero in chirurgia, ma facevamo anche molto i grandi diabetici, cioè operavamo i grandi diabetici, quindi quando operavamo un paziente c'era sempre bisogno di vedere che cosa mangiava prima, cosa doveva mangiare durante la degenza e poi cosa doveva mangiare dopo. E io a un certo punto mi laureai e avendo uno zio che era direttore provinciale delle poste a Torino mi disse che ad Asti c'erano più posti che medici, io andai immediatamente, lui era a Torino, andai direttamente ad Asti grazie anche a un cugino che lavorava lì all'imposta diretta, che quindi conosceva il primario e che era disperato perché non trovava medici che venissero lì. Tutto il contrario di adesso, insomma, che i medici non sanno dove andare. Storielle. Storiacce. Siete con me, Roberta Giordano, cari ascoltatrici, cari ascoltatori qui a Storielle. Io sono in piacevole compagnia, quindi insieme a voi, con di Giorgio Calabrese, famosissimo nutrizionista, volto della TV, abbiamo detto docente di nutrizione umana in diverse università italiane, collabora con università americane, vicepresidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto Nazionale della Ricerca degli Alimenti e della Nutrizione, consulente di ministeri italiani ed è stato anche fino a quest'estate membro dell'Autorità Europea sulla Sicurezza Alimentare. Ci spiegavi, Giorgio, quindi come iniziata un po' la tua storia col tuo papà, con la tua mamma, con figlio unico un po' viziato, coccolato anche dal punto di vista alimentare, poi ti sei laureato comunque nei tempi in medicina. Sì, sono arrivato ad Asti, c'era appunto questo reparto di chirurgia perché il posto c'era soltanto lì, io avevo già fatto anche chirurgia e mi sono messo lì, però io mi sono reso conto che la mia testa era di un uomo, di un ricercatore, di uno che voleva fare la diagnosi, cioè la chirurgia andava benissimo con le mani, nel senso avevo una buona tecnica perché io sono un chitarrista. Pure! Sì, vabbè, sono per hobby naturalmente, per cui diciamo non avevo difficoltà logistiche nell'arte manuale della gestione, poi insomma ero discretamente preparato, ecco, ho studiato bene e quindi ero contento e a quel punto lì ho fatto il concorso per entrare in specialità all'Università di Pavia per Scienze dell'Alimentazione, sono entrato col professor Lanzola. Mi sono specializzato molto bene, ho iniziato il mio studio ad Asti, stiamo parlando dell'81, e poi l'avevo aperto prima ad Alba, ancora, poi a Sanremo, e invece poi mi sono definitivamente fermato tra Torino e Milano, dove per 23 anni a Milano sono stato lì, e invece Torino ce l'ho ancora, sono più di 30 anni, insomma, che faccio questo, e quando venni eletto nell'autorità europea, spostandomi su Roma, aprì anche Roma. Però oltre a essere uno specialista dell'alimentazione e della nutrizione, Giorgio Calabrese, tu ne hai fatto anche un po' una materia divulgativa, no? Negli ultimi 10 anni, 20 anni possiamo dire che anche in Italia, ma nel resto anche dell'Occidente, si dà molta più importanza all'alimentazione, a quello che mangiamo, al riflesso sulla nostra salute rispetto a tempo fa, no? Ma qualcuno dice che io sia l'inventore della dietetica della gastronomia, cioè il problema di fondo qual è? I nostri ottimi medici dietologi di allora, di 30 anni fa, quando c'era un problema, non so, c'era uno che aveva un'epatite, si diceva, mi raccomando, la dieta con più proteine nobili, una certa quota di carboidrati, cioè tutte queste formule, c'era pure una dietista che prendeva una foglia delle calorie e si legava soltanto a proteine, glicidi e lipidi, punto. Io invece feci un'altra cosa, incominciai a studiare, dico, ma fatemi capire cosa c'è dentro ogni cibo, andiamo a vedere oltre ai glicidi e lipidi e i proteini, e mi resi conto che c'erano gli antiossidanti, oltre naturalmente alle vitamine e minerali che si conoscevano, però qual era la funzione di questi antiossidanti e vitamine o minerali non si capiva. Allora cominciai a studiare, devo dire che all'inizio un po' qualche collega, come dire, storgeva il naso, perché dice, ma che è sta cosa? Ma noi perdita di tempo, pensavo. Sì, noi dobbiamo fare i medici. Invece questa cosa era diventata un elemento che ha stimolato molto noi scienziati di allora, giovani, della nuova dietologia, la dietologia che mentre si occupava, come ho fatto io, di dieta nei trapiantati, ed era ancora loro sconosciuta quando io me ne sono occupato, ho fatto la dietetica computerizzata, sono stato forse il primo in Europa a portare assieme alla Dietosystem di Milano, e abbiamo messo in campo sia la informatica sia invece la parte, diciamo, più scientifica, clinica. Io visito ogni giorno, perché così deve essere. Poi sono il dietologo della Juventus, per cui faccio... Ecco, questo volevo dire. Io volevo, non so, non sapevo se mantenerlo segreto o no, perché sicuramente guadagni molti punti per certi versi, da altri penso che sarà inviso a qualcuno. Ma questo, per carità, anche perché poi noi facciamo un po' la farsa di essere nemici, però se c'è un calciatore anche dell'Inter e del Milan che avesse bisogno di me, mai mi rifiuterei. Certamente. Penso prima all'uomo e poi all'atleta. Certo, se magari c'è quella sera la partita, magari, che so, favoriamo un po' solo di la Juventus, in modo che non renda al 100%, ma mai farlo star male, chiaramente, mentre i nostri, invece di essere al 100%, li facciamo diventare al 300%. Addirittura. Senti, comunque tutta questa tua passione naturalmente per l'alimentazione e la nutrizione in tante tue pubblicazioni scientifiche, ma anche, come dicevamo, divulgative, tanti libri, l'ultimo, Cibo etico e cibo dietetico, che hai scritto tra l'altro con tua moglie Caterina, dove ci sono un po' la storia delle origini, le curiosità intorno al cibo, no? Lei è una tecnologa alimentare, è una giornalista che scrive, ora scriviamo su A Tavola, ha scritto per tanti anni su Specchio della Stampa con me. Vi siete trovati, insomma, eh? Vi siete trovati. È una ragazza molto brava, molto in gamba, molto intelligente, molto colta. Tu pensa che ora si è iscritta a teologia. Ecco, questo per me è una fortuna sia come marito sia come uomo, perché lei è adorabile, una buona mamma, una buona moglie. Andate d'accordo sul cibo, Giorgio Calabrese? Lei è una cuoca eccezionale, guarda. Raspelli un giorno venne a casa nostra, è un nostro amico, e le diede 14,5 di voto come fosse un grande ristorante, ma seriamente, non nel senso che voglio regalare. E tu, Giorgio, sei un buon cuoco o un buon mangiatore? No, io basta. Non sono un buon cuoco, io sono uno che capisce molto di cucine, per cui se tu mi dai una ricetta e ti spiego che cosa ci hai messo dentro e ti dico anche quello che manca, però usare molto le mani in cucina mi interessa poco. Sì, i tuoi figli, Rudy e Cinzia, sono cresciuti un po', diciamo, come una specie di generale dell'alimentazione, di colonnello che controlla, oppure... Rudy e Cinzia mi prendono poco sul serio, mi prendono molto sul serio come papà e poi come scienziato, ma nel campo delle cose loro sono molto autonomi, ambedue cucinano molto bene, ambedue sono molto, secondo me, molto intelligenti, sono molto carini, noi siamo una famiglia molto legata. Prima stavi dicendo quindi che sei un musicista, che sei suoni ancora la chitarra? Sì, altro in bello la chitarra. Certo, nel passato ho avuto anche qualche esperienza, sai come si faceva? Nelle band? Eravamo i 68, ragazzi, per cui come De Gregori, Venditti, quindi eravamo lì. Io, devi sapere che ero il capo in Sicilia dei Giovani Democristiani. Nella mia famiglia c'era una lontana parentela con Giorgio La Pira. Io ero sindaco di Firenze. Sì, ma era di Pozzallo, sì. Siciliano, capito? Poi io ero un allievo affettuoso del maestro Aldo Moro, che è grande uomo, cioè un grande statista, una persona per bene, un uomo che ancora oggi servirebbe tanto all'Italia, nonostante ci siano altre persone. Quindi un'esperienza multiforme hai avuto. Io sono un poliedrico, però voglio fare fondamentalmente lo scienziato, il medico, a me piace fare, pare che mi riesca bene, insomma, quindi lo faccio. Tu sei anche un grande difensore, baluardo praticamente, della famosa dieta mediterranea, no? Ormai è diventata uno slogan. Due anni fa con il mio amico Carlo Cannella abbiamo fatto un congresso internazionale alla Sapienza di Roma, l'alimentazione delle tre religioni monoteiste. Avevamo 47 paesi che parlavano di dieta mediterranea, che non è la dieta solo italiana, perché se tu vai dalla Sicilia al Veneto sono due diete diverse, però fa parte del Mediterraneo. Cioè? Noi dobbiamo mettere un po' di carboidrati, in una parte chiamiamo polenta, nell'altra parte nell'altra riso, e la carne, il pesce, la frutta, la verdura, ecco. Ma esistono, Giorgio Calabrese, i cosiddetti cibi miracolosi? Perché da un po' di tempo si parla molto, per esempio, dei broccoli, tantissimo dei mirtilli, che sembrano praticamente un elisir di lunga vita. Vedevo anche nel tuo ultimo libro, Cibo etico e cibo dietetico, che parlavi addirittura dei semi di lino come di un ingrediente che potrebbe rallentare il tumore alla prostata o addirittura bloccarlo. Possibile? Ma non sono miracolosi, sono nella ripetitività elementi che se noi rintroduciamo con una giusta frequenza, con tecniche giuste di nutrizione, noi siamo veramente in grado di poter prevenire malattie che potrebbero invece creare delle difficoltà se mangiassimo male, come si mangia purtroppo in molte zone d'Italia e in molte fasce di età. Però Giorgio Calabrese, dacci tre regole proprio dalle quali non si può prescindere per mangiare in un modo corretto, quindi mangiare non molto, e quindi la dieta, diciamo, quello che si intende. No, mangiare almeno 5 volte al giorno tra frutta e verdura, mangiare più legumi durante la settimana e mangiare più pesce che carne. Ma non è che sotto sotto, no, può venire il dubbio che Giorgio Calabrese, che appunto è un guru dell'alimentazione, della nutrizione, poi magari nel segreto della sua vita privata si fa fuori barattoli di cioccolata da patatine fritte? Un solo dolce che mi piace, il cioccolato amaro. Ah, il cioccolato amaro. Il fondente. Se tu mi dai il fondente io posso mangiarmene due tavolette, ma siccome il fondente è in giro, quello in purezza, se è al 90-95%, credimi, ce n'è proprio poco in giro. Te lo mangi tutto tu, ecco perché ce n'è poco in giro, no? Ma no, perché io poi devo dirti, io sono una persona che spesso, anzi, devo bacchettarmi, perché per l'eccesso di lavoro e di viaggi più che di lavoro, spesso magari mangio una volta al giorno e non devo farlo. E sto male, poi capisci? E allora io devo entrare nell'ottica che bisogna non mai saltare i pasti, ma diciamo metterli in modo armonico. Ma tutto sommato sono un uomo che ha capito una cosa: io non posso permettermi il lusso di stare male per causa mia. Poi se fate te uno vuole che io mi ammali, io accetto anche quello. Per cui non posso scherzare con questa cosa qua. Senti, poi hai avuto tanti premi e riconoscimenti nella tua carriera, nella tua storia professionale. Più recenti sono quello del Museo della Pasta e della Stampa Estera, no? Direi di sì, che sono due premi che ho preso a Roma. Non è che a Roma prenda tanti premi, ho preso tanti premi all'estero, ma a Roma pochi. Invece negli ultimi 15 giorni, come tu hai detto, ho preso il premio della Stampa Estera perché ho lanciato nel mese di agosto la dieta sociale sul Corriere della Sera con Margherita De Bacca, che è una grande giornalista del Corriere, e poi sulla Stampa avevo scritto mesi fa un pezzo a favore della dieta mediterranea e della pasta con Marco Zatterin, e abbiamo vinto questo primo premio che non ci aspettavamo. Se tu dovessi dire che cosa c'è di più siculo in te, cioè proprio un marchio di sicilianità che tu hai? Il senso della fedeltà. Cioè, se io ho un amico e stringo una mano e un contratto, non c'ho bisogno di firmare nulla. Se tu mi tradisci, io mi offendo. Qualcuno dice, ma non avevamo firmato nessuna cosa. Come no? Avevamo stretto la mano. Stretto la mano, più di così. Sono d'accordo su questa cosa. Ma, visto che siamo in chiusura, Giorgio Calabrese, questa che tu senti dal rumore metallico è la lampada di Aladino. Eccola. Una presenza eccezionale qui. Sì. Se tu dovessi chiedere al genietto dentro qualcosa per te, un desiderio che vuoi esprimere. Beh, un desiderio che io desidero per me, io penso fino ad oggi che il Padre Eterno sia stato molto buono con me, perché mi ha dato una buona moglie, dei buoni figli, un buon papà, una famiglia serena, un lavoro che mi ha dato soddisfazione. Certo. Vorrei tanto che i miei figli riuscissero ad avere la stessa nostra moralità nel futuro, trovando anche loro un compagno, una compagna, secondo se si parla di Rudy o di Cinzia, e che possano veramente fare meglio ancora di come ho fatto io il proprio lavoro. Se tu lavori bene e sei onesto, la società migliora. Se tu pensi o dici di lavorare bene, ma poi sotto sotto scavi nel losco, allora a quel punto quella cosa non funziona più. Un cuore di papà è anche molto idealista. Grazie Giorgio Calabrese. Grazie a voi. Ciao Giorgio. Un abbraccio.